Io insegno storia contemporanea. Quando inizio il corso delle mie lezioni, cerco di spiegare sempre ai ragazzi una cosa: a che serve studiare la storia? La storia non è una curiosità dei eruditi per mettere insieme un po' di date, di facce, di nomi, così gratuitamente. Benedetto Croce diceva: ogni storia è storia contemporanea. Perché? Perché la storia è il presente che interroga il passato in funzione delle scelte da fare. Se il futuro è una porta chiusa che ci sta davanti, la chiave per aprire quella porta è alle nostre spalle, è nel nostro passato. E quindi è a partire dal presente che noi capiamo la storia che c'è dietro, perché la storia è spiegazione del presente. E il nostro presente che cosa ci dice? Ci dice che noi stiamo vivendo in un paese che è in forte decadenza. Tutti gli indicatori, la produzione dell'università, la qualità della didattica, il funzionamento della giustizia, la produzione industriale, indicano costantemente una perdita di posizioni a livello internazionale. Il nostro paese, che era a un certo punto la sesta o la quinta potenza industriale del mondo, ha rapidamente scalato indietro le posizioni e per alcune cose, penso alla giustizia, ha raggiunto dei livelli particolarmente bassi. Addirittura la durata dei processi nel nostro paese è superiore a quella della durata dei processi in paesi come la Sierra Leone o il Togo. L'efficienza della nostra giustizia è inferiore a quella di molti paesi latinoamericani. La prima università italiana nelle statistiche mondiali dell'UNESCO è la Sapienza di Roma, che figura al 150° posto, superata di molte lunghezze dall'Università di Nuova Delhi, dall'Università del Cairo, eccetera. Perché? Quello che era stato il miracolo italiano negli anni 50, un paese sconfitto, distrutto dalla guerra, che però aveva saputo rinascere, aveva saputo diventare una democrazia industriale con molti squilibri, intendiamoci ragazzi, non è che mancassero gli squilibri, anzi ce n'erano tanti, però era riuscito nel miracolo di dimostrarsi un paese vivo, vitale, in grado di guadagnare un futuro. Perché questo miracolo è finito e siamo lentamente tornati indietro, discesi? Perché questo è un paese, dice l'Espresso, aveva un titolo particolarmente felice, una copertina di qualche settimana fa, non è un paese da giovani, e infatti non è un paese da giovani. È un paese in cui c'è una estesa gerontocrazia dalla politica alle imprese, alle banche, alla cultura, all'università. Io vedo, per esempio, nella mia facoltà una forte prevalenza di docenti ultrasessantenni che si esprime, per esempio, attraverso una mancata intolleranza nei confronti di manifestazioni giovanili anche minime, insomma, che i giovani facciano qualche sciocchezza, ci sta, fa parte, le abbiamo fatte anche noi. Io tendo a ricordarmelo, le sciocchezze che ho fatto quando avevo 18-20 anni. Vedo che molti colleghi non se le ricordano più, forse perché i loro 18-20 anni sono troppo lontani. Perché questo è diventato un paese da vecchi e per vecchi? Perché in questo paese i giovani si sposano a 40 anni? Dove si è rotto il meccanismo che ci portava in avanti e la ruota della storia ha cominciato ad andare indietro? Questo è successo, a mio parere, il momento decisivo sono stati gli anni 70. Perché? Perché vedete, fra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, l'Italia affronta un momento di grande crescita. La ricostruzione è finita, ha dato dei risultati, l'Italia è ormai un paese industriale avanzato. Tutto questo però non è stato un regalo della fortuna. È stato il prodotto del lavoro duro di intere generazioni che hanno lavorato a sottosalario. Eravamo noi i cinesi d'Europa, era l'Italia quello che faceva quello che oggi fa la Cina a livello mondiale. Eravamo noi quelli che invadevano i mercati europei di prodotti che costavano meno, perché? Perché pagavamo i nostri lavoratori molto meno degli altri, perché non avevamo alcuna garanzia della sicurezza sui posti di lavoro e infatti avevamo ed abbiamo il primato europeo degli infortuni sul lavoro, perché eravamo un paese che aveva uno stato sociale arretrato e inefficiente. Improvvisamente si prende atto che c'è ormai una ricchezza da distribuire e forse è il momento per cambiare questo paese, forse è il momento per distribuire meglio quella ricchezza, premiando anche quelli che l'avevano prodotta, forse è il momento di avviare la nascita di uno Stato sociale moderno, degno di questo nome, forse è il momento di liberarci di quelle eredità premoderne che condizionano ancora oggi la nostra società. Vedete, l'Italia è un paese industrializzato, è un paese che ha conosciuto una modernizzazione, ma una modernizzazione parziale e sbilenca, per cui per esempio ci sono intere zone del paese fortemente arretrate, come il sud, perché per esempio nel nostro paese c'è una forte persistenza del cosiddetto familismo amorale, per cui tutto è concesso in nome del fatto che abbiamo famiglia e questo naturalmente comporta una serie di ingiustizie sociali notevoli. Per cui farà il notaio il figlio del notaio, farà il magistrato il figlio del magistrato, farà il docente universitario il figlio del docente universitario. Le carriere non sono prodotte dal merito come vorrebbe una società moderna, sono prodotte dall'estrazione sociale e dallo stato di famiglia che ciascuno di noi si porta appresso. Questa è una società in cui c'è un'accentuata perversione corporativa, per cui ogni gruppo sociale tende a diventare una monade a sé stante che non risponde a nessuno, primi fra tutti i magistrati. La magistratura rappresenta la parte peggiore di questo paese, la parte più responsabile di tutto di quello che è accaduto. Ma accanto a loro possiamo dire la stampa, i giornalisti, possiamo dire i docenti universitari, vi parlo anche della mia categoria, dove abbondano le selezioni a gruppi familiari, a tribù. Possiamo dire anche i medici, i notai, la burocrazia, l'alta burocrazia ministeriale. Il motivo per cui noi non abbiamo uno stato sociale decente è essenzialmente perché c'è una burocrazia che divora risorse. A un certo punto scoprimo una cosa: che ogni 100 lire versata da un lavoratore, allora c'erano le lire, scusatemi, io sono un uomo del secolo scorso, ogni 100 lire versato da un lavoratore per la pensione, 60 se ne andavano per mantenere in piedi l'apparato dell'INPS, cioè gli impiegati, che, e solo 40 si trasformavano in pensioni per i lavoratori, perché questo finanziava una serie di privilegi. E ce ne accorgemmo quando una decina d'anni fa scoppiò la cosiddetta affittopoli, cioè quando scoprimmo che gli enti previdenziali compravano case, immobili, che avrebbero voluto garantire quei profitti con cui pagare le pensioni poi a chi veniva, e le affittavano a prezzi assolutamente ridicoli e antieconomici a gran parte della classe politica italiana. Ministri, sindacalisti, deputati erano i beneficiari di questa cornucopia dell'abbondanza finanziata dai soldi dei lavoratori. Bene, sono questi aspetti premoderni che fanno della nostra società una società che non è riuscita a superare questo stadio e nel mondo della globalizzazione perde colpi. Perché fino a quando non c'era stato il confronto della globalizzazione nei nuovi paesi industrializzati, la crescita si manteneva in equilibrio e oggi che fa fatica. Il momento di svincolo, il momento in cui si poteva tentare di riformare la società italiana, il momento in cui c'era una pressione sociale e c'era la ricchezza per poterlo fare, per creare uno Stato sociale efficiente, un'università decente, una magistratura diversa, soprattutto una nuova qualità della democrazia, sono stati gli anni 70. Cosa impedirà che questo accada? Lo impedirà proprio quel particolare blocco di forze conservatrici che si forma, che assomma ambienti militari, imprenditoria, corporazioni, soprattutto le corporazioni privilegiate, potere finanziario, che saranno accomunate con disegni diversissimi fra loro, attenzione, e in conflitto fra loro, ma saranno accomunate dal comune bisogno di impedire il cambiamento, di mantenere i privilegi raggiunti. Questo è il succo dello scontro degli anni 70. E come viene realizzato questo? Negli anni 70 si profila una situazione da guerra civile, nella quale ci sono due blocchi. Da un lato la grande impresa, i militari, la polizia, i servizi segreti, la certa finanza appoggiata da certe corporazioni privilegiate e soprattutto sotto l'ombrello della NATO, soprattutto degli americani, che non erano interessati per la verità a che l'Italia restasse il paese premoderno che era, non era questo il problema. Né gli americani volevano realmente una dittatura militare o fascista in questo paese, ma avevano il problema del confronto con l'URSS, loro ragionavano in termini militari. La presenza di un forte partito comunista era per loro un elemento di debolezza militare, perché in caso di guerra questo avrebbe significato un paese molto più problematico da difendere. E quindi per loro prioritario era la liquidazione del Partito Comunista e delle organizzazioni sociali che vi facevano riferimento. Dall'altro lato c'era un blocco che includeva il Partito Comunista, il Partito Socialista, la Sinistra Democristiana, alcuni partiti laici, i sindacati e alcuni settori di imprenditoria particolarmente illuminata. Il paese era spaccato in due. La stessa Chiesa era spaccata fra i due. Un gruppo era quello che poneva, sia pure con insufficienze, il problema di una nuova democrazia e di una profonda riforma sociale del nostro paese. L'altro blocco, quello conservatore, era quello che non solo puntava al mantenimento dei privilegi, ma puntava a tornare indietro a forme di democrazia più arretrata, più formale, qualcosa che lasciasse in piedi la facciata del palazzo, ma svuotasse il palazzo nel suo interno. L'idea, se non proprio di un regime militare o di tipo fascista, di una democrazia protetta dai militari. Lo scontro passò attraverso forme di guerra coperta, che in qualche modo era incentivata anche dallo scontro internazionale, perché vedete, lo scontro fra i due blocchi, quello russo e quello americano, non poteva sfociare in una guerra aperta perché la presenza delle armi nucleari lo impediva. Però le tensioni rimanevano, gli attriti rimanevano e cominciarono a trovare la strada verso forme di guerra coperta, colpi di Stato, guerriglie, terrorismi vari, eccetera. Si formò questo modo di condurre lo scontro politico. In Italia tutto questo ebbe la traduzione nel cosiddetto quinquennio stragista, le stragi che vanno da Piazza Fontana 12 dicembre 1969 alla strage di Brescia 28 maggio 1974. Ci sarà poi una coda di sangue di altre stragi, ma la partita politica si gioca tra queste due date. In questo quinquennio c'è un tentativo che è quello di creare le condizioni di opinione pubblica favorevole a una svolta autoritaria e militare. Come? Attraverso stragi di cui far ricadere la colpa sulla sinistra, sull'altro schieramento, per creare un riflesso d'ordine che porti all'instaurazione di un regime autoritario. Questo, intorno a questo si è svolta la battaglia, una battaglia che si è conclusa con un risultato di sostanziale pareggio per certi versi, perché il disegno di svuotare la democrazia italiana è fallito, la democrazia italiana è rimasta quello che era per un certo periodo, ma nello stesso tempo è stato fermato lo slancio verso una riforma sociale del nostro paese e una nuova qualità della democrazia. E tutto è precipitato in una specie di patto del silenzio. per il quale le forze conservatrici liquidavano la strategia della tensione e soprattutto mollavano i suoi esecutori, i gruppi di estrema destra neofascisti che avevano attivamente lavorato al quinquennio stragista. Accettavano anche di legittimare l'altra parte come forza di governo, essenzialmente il Partito Comunista, di consociarlo a meccanismi di potere. Il Partito Comunista a sua volta accettava l'adesione italiana alla NATO, ma soprattutto si stabiliva un patto del silenzio fra i due blocchi. Le stragi e tutto quello che vi ruotava intorno sarebbero rimaste un segreto, sarebbe rimasto un cono d'ombra che avrebbe protetto tutto questo. E infatti, a distanza di 40 anni, noi non abbiamo ancora i responsabili della strage di Piazza Fontana, né li avremo mai, perché una magistratura con scarso coraggio e scarso senso della propria dignità non ha saputo trovare i responsabili di quelle stragi e condannarli. Ma soprattutto sono rimasti nell'ombra, anche se la ricerca storica qualcosa ha prodotto, sono rimasti nell'ombra i mandanti, i responsabili. Sulla base di questo compromesso, che probabilmente aveva una ragione all'inizio, perché se questo, tutto questo fosse venuto fuori, probabilmente saremmo finiti a una guerra civile aperta molto sanguinosa, e quindi forse aveva ragione. In un primo momento questo patto. Il guaio è che, superate le ragioni che avevano portato a questo compromesso del silenzio, nessuno ha avuto il coraggio di metterlo in discussione. E si è creato un alveo, un cono d'ombra nel quale è cresciuta l'illegalità del potere. Accanto al passato stragista si sono accumulati il tangentismo e la corruzione della classe politica, le scorrerie della finanza pirata, i rapporti colpevoli fra le istituzioni, la mafia, la malavita organizzata. Tutto questo ha creato un grumo, il grumo del potere che delinque e che tuttora condiziona il nostro presente. È lì che si sono poste le premesse, da un lato per fermare la spinta al rinnovamento, dall'altro per inquinare definitivamente la nostra vita democratica. Noi restiamo un paese democratico e un paese molto vivace, questo va detto, ma paghiamo il prezzo di un'ipoteca pesantissima, che è quella di un potere che delinque e non è irrisanabile, almeno allo stato attuale. E qui la ragione principale di questo paese per vecchi, di questa democrazia di settuagenari inamovibile, e non ricambiabile. È qui la ragione del furto di futuro che è stato operato ai vostri danni. Perché vedete, noi della generazione che ha vissuto quegli anni, bene o male abbiamo risolto una parte dei nostri problemi, come? Col debito pubblico, con la devastazione ambientale. Abbiamo consumato risorse che erano delle generazioni future. E vi abbiamo fatto un regalo: ciascuno di voi, quando è nato, ha trovato già un debito di 10 milioni di euro ad attenderlo. Voi non lo sapete, ma ciascuno di voi ha già un debito di 10 milioni di euro da dare. E tutto questo si traduce in che cosa? Si traduce appunto nella decadenza economica attuale, nella decadenza sociale, in questa mancanza di offerta di futuro per voi. E allora riprendere le fila di questo discorso e riprendere le fila del perché questo è un sistema sociale che probabilmente non ha più nulla da dire, perché è un sistema sociale e politico che non ha un futuro da offrire alle sue nuove generazioni, perché si è speso le risorse di queste generazioni, e non alludo solo alle risorse economiche, pensate solo alla devastazione ambientale che abbiamo fatto, ogni volta consumando, per esempio, beni non rinnovabili e scaricando sulle generazioni future, vabbè, poi vedete da voi, trovate voi la soluzione. Bene, quando si opera in questo modo, inevitabilmente il sistema sociale si imbozzola e non ha vie di uscita. Ecco perché Questa è l'eredità che vi è stata lasciata, il senso di tornare a discutere di queste cose, di tornare a discutere. Di quando quel meccanismo si è inceppato, si è rotto, è uno, non l'unico, è uno dei passaggi mentali necessari per capire da dove dobbiamo riprendere, per ridare a questo paese e alle sue generazioni un futuro.